Sango ya bayemi ya eba kolo boka Blaso vede Blaso vede Ngana lingi na yoka Sango ya bayemi Fungo na la vodiza yi Blaso vede Mokolo ya inga Sango ya bayemi Sango ya bayembi Fungo na la voix du Zaï Blaso vede Mokolo ya inga Sango ya bayembi Bakolo mboka epe ya mikili Blaso vede Emission place au vedette. Bokelo isenge. Sango ya bayembi. Omega we wando. Emission place au vedette. Kya mwangala mateta. Sango ya bayembi. Ebena boka. Emission place au vedette. Ona bela bela. Sango ya bayembi. Ebera soki. Emission place au vedette. Oh soki ranzenza. Sango ya bayembi. Mega soki bambu.